tempo di sport di Gigi Garanzini. A tempo di sport, sì, ma palla spicchi naturalmente il venerdì. Qui Carlo Genta, Flavio Suardi vicino a me. Ciao Flavio. Ciao Carlo, eccoci qua. Coach Dan Peterson, buongiorno. Amici sportivi, ma non c'è Gigi Garanzini no, oggi? No, no, sì, no, ci siamo noi, siamo coach, noi. Come siamo sempre. Noi, ok. Come sempre, coach. Senti, io partirei dalla geografia oggi. Mamma mia. La geografia del basket italiano così come esce dall'ultima del girone di andata. La geografia che ci dice che Teramo, Avellino, Montegranaro tengono la rivolta dei peones di cui abbiamo parlato l'anno scorso, insomma. Infatti, merito loro, hanno fatto delle grandi cose. Fatto delle grandi cose, però ci sono anche le delusioni. Milano, Pesaro, Fortitudo, Bologna, grandi che non convincono. Well, io parlando di, adesso bisogna spezzare tutti qui. Milano ogni tanto dà dei grandi segni di poter fare qualcosa, quindi io prima di gettare veramente loro nella fossa, io aspetterei un attimo. È chiaro che posso dire che per quanto riguarda Bologna, io non ricevo mai, dico quasi mai, telefonate da Bologna, dai giornalisti e compagnia chiedendomi pareri, però mi ha chiamato in settimana. Peterson, appunto, la crisi della Virtus, Peterson, appunto, la crisi della Fortitudo. Ragazzi, sono qui a Milano, cosa posso sapere io di loro? Però questo vuol dire che non ci sono acque tranquille per quanto riguarda le due squadre bolognese. E poi Milano, mancando a qualche diciamo appuntamento importante, ovviamente ci sarà qualche commento lì. Senti coach, come feeling? Ovviamente tenuto conto del fatto che non sei a Teramo, non sei a Montegranaro, non sei a Treviso, chi gioca la miglior pallacanestro? Secondo te, tolta la Montepaschi che è horse category? Altra categoria, però per bisogno dire questo, che non voglio anche partire prima se posso. Sì. Queste squadre non solamente giocano bene, ma anche hanno lavorato bene. Bisogna dire questo senza sembrare che vogliamo dire negativo sugli altri. No, non sto dicendo questo qui. Hanno scelto bene i giocatori in estate, hanno scelto bene gli allenatori, hanno lavorato bene, hanno cercato di fare tutto. Quindi sono certe cose che hanno fatto loro che illustrano veramente che hanno fatto un lavoro completo, totale. Coach, io vorrei parlare con te della Lottomatica Roma, perché Nando Gentile ha vinto 6 partite su 6 in campionato da quando ha preso la squadra. Non la voleva prendere perché giustamente pensava forse di essere ancora un po' troppo acerbo, no, per guidare una fuoriserie come Roma, però pian piano, probabilmente guardando i giocatori negli occhi e sentendosi ancora un po' giocatore, ha trovato la quadratura giusta. Ma guarda, io ho visto Gentile in televisione un paio di volte qui e mi dà l'impressione di avere la stoffa del vero allenatore di alto livello. So benissimo che ha avuto la prima esperienza Imola, la gente mi tira in faccia questo qui, dico Imola, storia antica, non voglio sapere questo qui. Alcuni sono nati per allenare ad alto livello. Io ho visto lui allenare tenendo la squadra in partita, quello che è andato a supplementare Istanbul, era una partita persa, impossibile andare a supplementare. Quello che lui ha vinto con Avellino a supplementare era perso 6 volte e lui con la calma, facendo le scelte giuste, non scelte spettacolari. Lui deve stare in campo, lui deve uscire, lui deve andare qui, lui deve... Cioè, mi ha fatto un'ottima impressione, devo dire questo, un'ottima impressione. Quindi io dico che molto merito di questo qui, dopo l'inizio molto difficile di Roma, Nando Gentile. Sai cosa, mi dà l'impressione, brutto dirlo, povero Repesa, però mi sembra quasi che Roma si sia un po' liberata da un peso, forse... Forse Repesa non era... insomma, aveva fatto il suo tempo nella capitale. Ma può anche darsi, perché c'è anche la psicologia. Ovviamente i tempi sono cambiati. Io che ho fatto 5 anni alla Virtus, che è un record a tuttora, che Messina ha pareggiato, e 9 Milano, che dopo Rubini c'è nessuno dura 9 mesi, quantomeno 9 anni. Però i tempi sono cambiati e i giocatori sono tutti... ognuno di loro un singolo multinazionale, ha capito? È un'industria, loro sono la CEO, la CEO di un'industria, hanno le agenti, hanno della gente che lavora per loro, quindi, e loro pensano un anno alla volta, il prossimo contratto. E anche se io fossi un allenatore oggi, magari avrei anche io la stessa identica mentalità, non so cosa dire, ok? Quindi è più difficile, e Repesce certamente, più che sei ormai in un club, più difficile diventa, secondo me. Coach, io vorrei chiederti anche su Treviso, perché Treviso pian piano, in silenzio, sotto traccia, sta lavorando davvero bene, sta ritrovando una squadra di alto livello, e secondo me Treviso è una delle squadre meglio costruite di tutto il campionato. Hai detto una grande verità, la cosa che hai detto che è stato più giusto, silenzio. Non hanno fatto gradasso, non hanno fatto proclami, non hanno fatto dichiarazioni sotto acqua. Coach McMuti e compagnia hanno lavorato senza fare grandi storie. Noi siamo Benetton con umiltà, si va avanti ogni partita giocando come fosse una partita playoff, e guarda caso sono lì a bussare alla porta e hanno la possibilità. Guarda, adesso voglio dire una grande fesseria, forse alla fine di questo campionato qua, e anche lanciate i giovani Rulo e Renzi, non dimentichiamo neanche questo, forse quando finiamo la stagione regolare e Siena ha asfaltato tutto e finisce 30-0, chi sarà la seconda forza del campionato sulla carta? Roma, ma anche può darsi Treviso, perché da qui alla fine c'è tanto tempo ancora. Intanto invitiamo gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, messaggio, ne sono già arrivati tanti, 349 238 6666. Gabriele da Biella: che ne pensate di Biella? Miracolo finito? Ma no, miracolo finito no, perché c'è una società che ha una garanzia a Biella, garanzia di continuità soprattutto, poi ci possono essere stagioni che vanno meglio, altre che vanno peggio, però c'è una società che ha una garanzia di continuità e di serietà. Coach, molti chiedono, e poi sono d'accordo con te, perché a Tripaldi è una persona che, cioè, quello che ha fatto lui nella pallacanestro non si discute. No, poi c'è Savio, insomma. Guarda, tra l'altro, proprio a proposito di questo, mi è capitato anche abbastanza di recente di parlare con Alberto Savio, che mi spiegava anche che paradossalmente l'esclusione di Napoli e Capodorlando ha messo nei guai delle società come Biella, come tutte quelle che magari pensavano di fare un campionato dovendosela giocare con due retrocessioni ma 18 squadre, e adesso te la devi giocare con due retrocessioni ma ci sono due contendenti in meno, e quindi comunque per chi non ha un budget enorme, per chi ha scelto una via di prendere un roster e continuare con quello fino alla fine della stagione, la cosa diventa un po' difficile, perché loro sono una squadra molto giovane e fanno anche fatica a trovare continuità. Lui ha detto una grande verità, perché è proprio così, cioè hai cambiato la matematica. Non c'è più il cuscino di due squadre deboli che vanno in Lega 2, adesso deve lottare. Ups, siamo noi lì, ragazzi, siamo in zona retrocessione. In un altro anno sarebbero stato una botta di ferro. No, poi vedo squadre in zona retrocessione che prendono le stelle, no, coach? Sì. Alan Ray a Ferrara, cioè Forte a Udine. Sì. Non so se sono giocatori adatti per quei piani. Ma questo è un discorso veramente da esaminare proprio con un microscopio, perché scegliere perché magari un grande giocatore, comunque è stato un grande giocatore, dice: ma cosa stanno parlando qui di retrocessione? Io sono un giocatore che ho giocato nelle NCAA, Final Four, le NBA, ma qui là, cioè, e non si rendono conto forse del dramma della situazione, di cosa veramente c'è da lottare, e quindi è un problema per loro e le grandi stelle e poi in America, se tu hai parlato degli americani, noi non abbiamo a nessun livello la retrocessione, cioè questa è una cosa. Cosa vuol dire retrocessione? Andare giù. È una lingua straniera, come parlare arabo con loro. Non lo sanno, ma non per cattiveria, non lo sanno, tutto lì. Sì, è vero, è una grande differenza. Sinceramente, cose, non mi spiego un giocatore del talento di Alan Ray con quel rendimento abbastanza risibile, insomma, un rendimento che nessuno si sarebbe aspettato. E non, sinceramente, spero per Ferrara che Alan Ray sia un giocatore decisivo per la salvezza, sì. Ma qualche dubbio ce l'ho. Se cambia faccia, gioca sempre con la stessa faccia, Alan Ray. Esatto. Non si arrabbia mai, non si deprime mai, c'è sempre la stessa faccia. Esatto. E qui la gente guarda la faccia, ma anche in America un po', perché quando, non so, una critica, che io magari non so, è rivedibile, di Andrea Bargnani, non ha la faccia cattiva, quelle cose lì, hai capito? Quindi anche in America tendono, io devo dire, adesso una cosa a parte, come allenatore, io guardavo la faccia dei miei giocatori, certo. Le facce, e quando fa l'ottavo un giocatore non dico che vuole vedere un bel ragazzo, sto dicendo che volevo vedere la faccia giusta, come si dice, game face, ok, la bravissimo. Faccia della partita, e se non lo vedi c'è da preoccuparsi, uno che fa fatica a entrare emotivamente nelle cose, è un guaio, non ci sono dubbi. Discorso perfetto, questa è una lezione di sport del professor Peterson. Coach, andiamo negli Stati Uniti un attimo, poi ne torneremo a parlarne con calma, però sono molti ascoltatori che ovviamente vogliono sapere del bambino Danilo Gallinari che... in campo, stoppata Shaquille O'Neal, si accende il Madison Square Garden, bello, eh? Ah, questo. Well, guarda, io devo dire che con tutto rispetto per Danilo sono un po' sorpreso, ma non per il suo talento qui, eccetera, ma il fatto che non aveva giocato, cioè proprio è entrato in tutte queste situazioni freddo, se vogliamo dire questo, non aveva la possibilità di assaggiare diverso il campo qui, una cosa là, quindi... Dopo 36 partite fuori combattimento, improvvisamente viene buttato dentro la mischia e risponde. Quindi questo vuol dire che lui ha veramente dei numeri. Ma guarda, io ti dico, forse voi avete visto il filmato, c'è stata un'azione, voi avete citato la stoppata, c'è stata un'azione che lui ha stoppato Derrick Rose contro Chicago. Mm-hmm. Recuperata la palla, un passaggio a due mani, ma tre quarti campo, uno per un Nate Robinson. Ecco, a Robinson, bravo, tu hai visto la partita. Esatto. E questo è l'indicazione che questo ragazzo è sveglio, che c'è, è presente, c'è proprio, mi ha fatto questo una grandissima impressione, grande impressione. A me è venuto in mente, vedendolo giocare, il discorso che facevamo anche con Federico Buffa qualche tempo fa, cioè il discorso dei bad 20s e dei good 20s. Quelli di Gallinari non sono 20 punti, però noto che D'Antoni lo fa giocare nei momenti decisivi della partita, sono punti pesanti. Poi voi sapete che bisogna prendere tutte le statistiche con le pinze, cioè, però c'è il plus minus, più o meno, cioè cosa fa la squadra con il suo tempo in campo, cioè Danilo in campo per, non so, 18 minuti, cosa fanno in quei 18 minuti? Ieri più 21, cioè l'altro ieri più 21, cioè, nella vittoria, e quindi stasera giocano contro Memphis che ha licenziato Iavaroni ieri sera, però voglio dire che lui è stato più in ogni partita, una sconfitta e due vittorie, il suo minutaggio in campo, la squadra ha vinto quello parziale lì, questo è significativo, e loro sono, io dico, Mike D'Antoni ovviamente, ma Donnie Walls, sono innamorati della potenziale di Danilo Gallinari. Mike D'Antoni ha detto, lui è veramente, ha detto tre volte veramente, è il miglior, un grande tiratore, il miglior tiratore della squadra, e Donnie Walls, io corrispondo con lui via email, ha detto, lui non vuole mai sbilanciarsi perché è un avvocato, Walsh, dice, se lui riesce a stare in buona salute, ha le serie possibilità di diventare un forte giocatore. Per Walsh questa è una dichiarazione enorme, okay? Sì, perché sì. Lui è molto molto nato con le cose. Per chiudere con il coach Peterson, un messaggio di Chris da Verona, ma già mi ero segnato la considerazione. Un minuto di raccoglimento, Chris, è tanto perché non è morto nessuno, però è vero che dopo 16 stagioni NBA di puro vigore cestistico, come scrive il nostro ascoltatore, ieri Alonso Mourning ha dato l'addio al basket giocato. Coach. Well, Alonso Mourning, cioè, sappiamo che ha avuto diversi problemi, anche un rene sostituito, diverse cose che solamente andare in campo, solamente prendere una botta, una gomitata nell'anca lì, cioè, sopra l'anca lì, le colpisce lì, cioè, è una cosa veramente a luce. Sean Elliott lì, quello che ho giocato a San Antonio, pure lui ha avuto la stessa operazione. Queste sono operazioni, cioè, uno esce da lì, dall'operazione, è già una vittoria camminare, non parliamo di giocare l'NBA. Poi lui ha giocato la squadra titolo, lui ha giocato la squadra debole, e Mourning è stato un grande professionista. Ovviamente ci dispiace vedere uno come lui ritirarsi, perché io dico sempre, non si può sostituire un giocatore così con un altro che entra, un altro deve fare quello che ha fatto lui. Uh-huh. E poi l'ha sostituito come i grandi allenatori, ok? Quindi e lui, qualcuno deve fare 16-17 anni di grande impegno e di questo coraggio sconfinato che ha avuto lui, che dopo le operazioni che ha avuto lui, di tornare a giocare, veramente un elemento, c'è tanto di cappello. Grazie coach. Ciao ragazzi. Ciao coach. Alla prossima, ciao. Alla prossima, coach Peterson. Picchi. Enzo da Bergamo domanda a Flavio via SMS: Bulleri vicino al taglio, risulta di sì, risulta che Milano abbia già preso, stia per prendere Hollis Price, che è un giocatore che in questo momento sta giocando nella Dinamo Mosca. Tra l'altro bisogna fare questa operazione in tempi abbastanza brevi per fare in modo che questo giocatore possa scendere in campo anche nelle top 16 di Eurolega, però magari chissà, nella seconda parte del programma potremmo anche saperne qualcosa di più da qualche diretto interessato. E, vicino al taglio mi sembra un po' ingeneroso. Certo è vero che Milano e Bulleri non hanno mai avuto un gran rapporto, ecco, soprattutto perché io resto convinto del fatto che Bulleri abbia fatto le sue migliori stagioni vicino ad un playmaker, sì, di un certo livello, e a Milano gli hanno chiesto di fare un lavoro che forse non è il suo. Beh, il miglior Bulleri si è visto con Tyus Edney, esatto, con Tyus Edney a Benetton, ma anche in nazionale, quando c'era ad esempio Soragna, che pur non essendo un playmaker dava una mano nel playmaking, dava una mano in regia. È lì che si è visto il miglior Bulleri. Certo è che dispiace, come abbiamo detto molte volte, vedere comunque un grande giocatore, è stato importante per la nostra pallacanestro, fare proprio l'ultima ruota del carro, non entrare nelle rotazioni, entrare come cambio tattico. È abbastanza svilente. C'è anche un altro messaggio che vorrei leggere. So che rispetto all'anno scorso è tutto grasso che cola, ma una Virtus Bologna può dipendere dai chiari di Luna del suo cosiddetto leader Boykins? Mi sembra un po' devo dirti che mi sembra un po' riduttivo, perché Bologna sì, però non credo si possa dire che sia Boykins dipendente. No, non anche Boykins se Boykins è un grande giocatore. Sì, però si stanno trovando degli equilibri, problemi di chimica alla Virtus Bologna in questo momento, e di rapporti, io credo anche. C'è Oreste da Caserta, ora in linea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, dica. Volevo chiedere una piccola intervento per quanto riguarda la Eldo Caserta. Sì. Con il taglio del l'avvento di Jenkins, non pensate che ci sia stato una sorta di ombra su quello che sta realizzando Diaz, e non pensare di prendere un pilot forte da aiutare così Slay sotto canestro? È una bella domanda questa, nel senso che io sinceramente avrei preso un altro tipo di playmaker, un altro diverso tipo di giocatore diverso da Jenkins, anche perché avendo Fabio Di Bella sta giocando una grande stagione, molto probabilmente si poteva puntare su un altro tipo di giocatore. Sinceramente, che le cifre di Diaz risentissero un po' della presenza di Jenkins era secondo me ipotizzabile ed è un rischio mediamente calcolato, nel senso che l'altra faccia della medaglia era una Eldo Caserta che, se tu ti ricordi bene Carlo, le prime giornate era davvero Diaz dipendente. Sì, no, non c'è dubbio, ma soprattutto è stato inserito Jenkins in un momento in cui la squadra aveva trovato buoni equilibri, e soprattutto in cui, ripeto, Di Bella stava giocando una grande partita dietro l'altra, quindi non so se fosse veramente il caso di fare un cambio di quel tipo. Di quel tipo forse no. E per quanto riguarda la composizione della squadra sotto i tabelloni, è anche vero che forse un pivot di ruolo, come diceva il nostro ascoltatore, ci può anche stare, ma credo che qui si debba aprire una parentesi fin troppo lunga sul fatto che una squadra può rinunciare magari e può mascherare delle lacune strutturali sotto i tabelloni, ma non può rinunciare a un esterno che magari ne mette 15 o 20 tutte le sere, perché il tiro da tre condiziona talmente tanto il gioco che certo. Questo è... Messaggi 349-238-6666, sono una valanga. L'ho detto veloce. 349-238-6666, numero verde 800-24-0024. Si insiste su Gallinari, siamo curiosi di vederlo alla riprova. Quando gioca il Gallo? Questa sera contro Memphis, gioca ancora al Madison Square Garden, e quindi aria di casa. Che ha cambiato allenatore, non c'è più Mark Iavaroni, ne ha parlato Coach Peterson. Tra l'altro Mark Iavaroni, qualcuno se lo ricorderà, in un paio di apparizioni anche con la maglia di Milano. Tra l'altro credo una addirittura alle dipendenze di D'Antoni. Sì. Quindi se non ricordo male il primo D'Antoni allenatore, esatto. Iavaroni è stato esonerato, tra l'altro Iavaroni è il settimo allenatore che viene esonerato nella NBA. L'hanno cambiato Washington, Toronto, Sacramento, Philadelphia, Oklahoma City e Minnesota, quindi questa è la sua peggio del nostro calcio, sì. Peggio del nostro calcio. E adesso la squadra verrà presa dall'assistente Davis prima che un altro allenatore, Lionel Hollins, riuscirà appunto a sedersi in panchina come capo allenatore. Anche lui, se non ricordo male, era nello staff dei Memphis Grizzlies, che peraltro non sono, diciamo, una delle migliori squadre della Lega. Ecco, se invece vogliamo parlare anche di Toronto con Bargnani, questa sera va a far visita ai Chicago Bulls, che abbiamo visto contro appunto New York di Danilo Gallinari. Gioca anche Golden State questa sera, ma Bellinelli non è ancora in campo a causa ancora del problema alla caviglia. Sì, è un peccato perché l'ha tolto proprio nel momento migliore della stagione. Adesso bisognerà vedere come rientrerà e se riuscirà a ritrovare i minuti che aveva prima. È sempre una scommessa, perché con Don Nelson non conta nemmeno aver giocato 10 partite in fila a quei livelli. Magari Torra se lo dimentica un'altra volta. C'è chi scrive: Gallo Junior, il più forte italiano perlomeno degli ultimi 20 anni, tra 10 vedremo se di tutti i tempi. Ha ragione Marco, aspettiamo un attimo. C'è Giuseppe che domanda cosa servirebbe all'Armani per esplodere. Due nomi non saprei. Un ruolo sicuramente, un pivot vero, playmaker e pivot, i nomi insomma cercateli voi. Io avrei preso, visto che c'era la possibilità di prenderlo, ad esempio Van der Spiegel, che non è il giocatore che ti fa esplodere, ma per Milano sarebbe stato terribilmente utile sotto canestro. Hollis Price è un ottimo giocatore, staremo a vedere, ma bisogna capire cosa si intende per esplosione. C'è Alessio da Treviso che sia l'anno di Siena per l'Eurolega. Ho sorteggiato i gironi di Eurolega, sì, li sapete? Sì, assolutamente, sorteggiati i gironi di Eurolega. Se vuoi andiamo a leggere in maniera abbastanza veloce. Il gruppo E, Tau Vittorio, Olympiacos, Armani Jeans e Procom. Gruppo F, Barcellona, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino. Gruppo G, Unicaca Malaga, Lottomatica Roma, Panathinaikos e Partizan. E poi il gruppo H, CSKA Mosca, Montepaschi Siena, Fenerbahce e Sibona Zagabria. Diciamo che passano le prime due di ognuno di questi quattro gironi, e poi i quarti di finale si giocheranno al meglio delle 5 partite e si sfideranno la prima del girone E contro la seconda del girone F e viceversa, così come la prima del girone G andrà ad affrontare la seconda del girone H. Dunque ci saranno questi incroci. Sorteggio non benevolo per Roma, direi, anche se forse può pensare di passare il turno. Se lo gioca con Malaga, poi il Panathinaikos, stai vedendo. Sì, no, sai cos'è? Il Partizan, che è una squadra che è sempre difficile da affrontare. Io sinceramente vedo un briciolo di possibilità anche per l'Armani. Bah. Non so perché, ma nel senso che... Col Tau? Forse, cioè comunque... Io dico Tau Olympiacos nel gruppo E, Barcellona, Maccabi nel gruppo F, e si incroceranno poi nei quarti di finale, che si giocano al meglio delle 5 partite, davvero una spremuta di grande basket europeo, e lì insomma sarà importante dosare le energie, perché si arriverà ad un momento della stagione in cui si giocherà di più in Europa che nell'NBA per chi passerà. Comunque Tau Olympiacos, Barcellona, Maccabi, direi Roma, Panathinaikos, secondo me ce la fa Roma. E dall'altra parte Sì. E Montepaschi. Sia l'anno di Siena, sì, lo sperano tutti. Come fa a sapere in Coppa? Io credo una cosa, che quest'anno Siena abbia corretto in corsa come meglio non poteva una lacuna strutturale che aveva nel playmaker di riserva, cioè Finlay. Secondo me McDonald, nonostante non abbia più un'età giovane, sarà una chiave soprattutto in Europa per gli equilibri di Siena. Sì, è vero, sarà così. Dunque, questi gironi dell'Eurolega e poi vediamo cosa fa l'Olympiacos. No, perché abbiamo parlato un sacco di Kakà, no? dei milioni di dollari, di euro, di quello di sterline, quello che volete voi, che gli sheik erano pronti a dargli. Però oggi prendi il giornale e leggi che l'Olympiacos, che sarà avversaria di Milano, anzi la prima avversaria di Milano che aprirà la Top 16 proprio al forum contro l'Olympiacos, ebbene leggi che questi, dopo aver preso Josh Childress, non mi ricordo quanti milioni di dollari gli danno, ma tantissimi, che è fermo per 45 giorni, si è fatto male, ebbene stanno pensando sono seriamente intenzionati a prendere Stephon Marbury, che ha un contratto ancora con New York da 22 milioni di dollari, ma questi sono pronti a scucirne 15. Mica male, eh? No, assolutamente non male. Sono quelle poi, sai, bisogna sempre vedere se un giocatore come Marbury nel campionato, cioè nell'ambiente greco, potrà... Io l'avrei visto bene a Milano, sinceramente, un giocatore di questo genere, come ambiente, se vogliamo, forse è più favorevole un ambiente milanese a un giocatore come Marbury che non lo immagini alle battaglie del campionato greco. Ma è comunque un giocatore che ha sempre lasciato terra bruciata intorno, Stephon Marbury, quindi puoi prenderlo senz'altro come cassa di risonanza, puoi prenderlo come come insomma specchietto per le allodole, mi viene da dire, però costruire una squadra per lui non è mai stato una grande idea nell'NBA, e credo non lo sarebbe nemmeno in Europa. Nicola scrive questo: per me passa solo Siena, sottovalutate troppo Malaga e a Belgrado non si vince. Devo dirti la verità, non vado lontano da questa ipotesi del nostro ascoltatore, sai? Sì, però è una lottomatica che se continua così è qualcosa di serio. È vero che a Belgrado non si vince perché il Pionier è il palazzetto più caldo d'Europa, però insomma, se guardiamo i valori in campo, tutto sommato Roma c'è da dover giocare. E attenzione perché il Panathinaikos, ripeto, dà segni di grande discontinuità. Palla spicchi. Ecco che torniamo, ripeto il nostro contatto 800240024, un numero verde ancora mezz'ora per stare insieme, per parlare di basket ogni venerdì, come ogni venerdì, qui con me, come ogni venerdì, Flavio Suardi, e un sacco di messaggi, poi ne leggiamo degli altri. Mi ricordo, caro ascoltatore, io sì, lui, Flavio Suardi, è giovane, però io mi ricordo che Avaroni giocava nella Pintinox Brescia nella stagione 78-79, lì è arrivato in Italia, poi... Stati Uniti, ritorno in Italia, insomma, questa è la carriera di Avaroni, che però è sbarcato appunto a Brescia nel nostro basket. Massimo da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo parlare un attimo dell'Armani Milano. Sì. Nel senso che facendo un confronto con Siena mi sembra che sia stata una squadra che è stata costruita nel tempo. Certo. Milano tutti gli anni vogliono questo, vogliono quello. E restano le castagne. sì, beh, così. Che il proprietario mi sembra che di disponibilità ne abbia, di coinvolgimento ne abbia, secondo me dovrebbe circondarsi di persone capaci e utili alla società. Sì, beh, questo è l'anno zero per Milano, no? Primo anno di Armani proprietario, e si tratta d'ora in poi di andare a costruire qualcosa. Poi è evidente che cambiando ogni anno 9 giocatori su 10 o 8 giocatori su 10 non si costruisce nulla. Adesso vediamo, io credo siano state messe le basi, perché Vitali è comunque un giocatore importante, un giocatore in crescita, perché la squadra è senz'altro migliorabile, però c'è uno zoccolo duro, io credo che su quello venga costruito il progetto Armani Gips. Sì, e poi è la prima volta che vanno alle top 16, dunque comunque in generale è un risultato che può galvanizzare tutto l'ambiente, soprattutto se adesso riusciranno a trovare un'addizione giusta per migliorare la squadra, come dicevi tu Carlo, chissà che appunto non si possa anche ottenere qualche soddisfazione futura, insomma. Però la squadra, ha ragione il nostro ascoltatore, c'è stata la prima parte del suo intervento, non so se sei d'accordo, che probabilmente non avremmo saputo rispondere nulla perché stava dicendo tutto lui. No, certamente. Siena è una squadra programmata, una squadra costruita, ed è una squadra... Sì, a fine ciclo però, lo diciamo da un po'. Non è più stata migliorabile, diciamo. No, infatti, e questo è un po' il... Per Siena questo deve essere l'anno dell'Eurolega, perché altrimenti poi diventa molto difficile. Vedo che i nostri ascoltatori non possono vederti, perché non ci vedono dalla webcam probabilmente, ma tu scuoti la testa. Perché... No, ma perché Eurolega, sbagli un tempo, sei a casa, come Champions League, no? Vogliamo vincere la Champions League, sbagli un tempo, prendi 3 gol e la perdi, quindi senz'altro... Siena arriverà nelle migliori condizioni per giocarsi la parte finale dell'Eurolega, poi da lì a dire che la vince, insomma, ne passa, stiamo a vedere. C'è un altro messaggio molto divertente, che viste le logiche societarie degli ultimi anni, Marbury potrebbe venire da noi in Fortitudo, scrive Ono. Non è male. So se la Fortitudo ha 15 milioncini da buttare lì. Sì, l'Olympiacos, misteriosamente, 6,7 a stagione, 6 milioni e 700 a stagione. Per Josh Childress. Sì, a stagione, quindi pochi non sono. Non sarà cacà, però... Non saranno gli shaky del City, però anche lì qualche quattrino gira. Saluto e ringrazio il coach dell'Armani Jeans, Piero Bucchi. Buon pomeriggio, ciao, coach. Tutti, buongiorno. Ciao Piero. Allora, coach, obiettivo centrato, quello delle top 16 di cui stiamo parlando, un obiettivo che non è stato centrato, cioè quello delle Final Eight di Coppa Italia. Il tuo bilancio al giro di boa? Guarda, abbiamo fatto un giorno d'andata sicuramente con alti e bassi. Purtroppo credo che abbiamo avuto tante problematiche che hanno un po' reso difficile l'inizio. Siamo riusciti a raddrizzare l'Eurolega, e sai che si partiva da 0-4, e non ce l'abbiamo fatta entrare nella famiglia di Coppa Italia. Credo che abbiamo disperso molte energie nell'Eurolega, perché effettivamente fare 5 su 6 in quella competizione penso che sia veramente meritevole. Nello stesso tempo questo ci ha portato di energie probabilmente in campionato, e credo che effettivamente siamo riusciti a rimediare in maniera direi brillante appunto nella competizione europea. Non ci abbiamo fatta centrare la top 8 per la Coppa Italia. Credo che nel compenso sia, sai, delle due forse nessuno ci dava tanto credito in Europa, diventava più normale entrare in Coppa Italia. Probabilmente dispiace ovviamente per la fanella di Coppa Italia, ti confesso che se proprio devo scegliere se sono attore, certo, buttare giù una cosa o l'altra, certo, avrei preferito andare avanti alla top 16, questo lo confesso, ma non per svenire la Coppa Italia. Però onestamente, avendo fatto una scelta a priori, ho fatto questo. Ma certo. È chiaro che dovevamo centrare entrambe le cose, su questo ne sono consapevole, siamo un po' dispiaciuti, abbiamo rimediato a una cosa delle due, sperando forse energie, come ti dicevo, e cercheremo ovviamente di rimediare adesso in campionato. Adesso però il doppio binario continua, perché top 16, TAO, Olympiacos, Procom, queste le vostre avversarie, e quindi questo doppio binario campionato Eurolega continuerà, anche perché non credo che ci si accontenti della partecipazione. Mai, no? mai. Non ci si accontenta mai, ogni partita la giocheremo per cercare di dare soddisfazione ancora ai tifosi, questo lo posso garantire. Però è anche normale che i giocatori abbiano questa ambizione, come sottoscritto, perché penso che sia un piacere competere in Europa. Però è chiaro che da lì in avanti il campionato ha molta importanza, perché vogliamo ovviamente entrare in una posizione di privilegio nei playoff. Coach, ce lo chiedono anche tanti ascoltatori di SMS, che Milano vedremo in futuro, anche perché insomma, se non sbaglio, qualche cosa potreste fare in queste ore, magari sono informazioni sbagliate quelle che abbiamo noi. In termini di giocatori? Sì, sì, chiaro. Qualche cosa potremmo fare in queste ore, in che senso? In termini di giocatori, dicevo. Giocatori, ma guarda, arrivo. Ti dico, effettivamente la società, come del resto da giugno, da agosto, è sul mercato perennemente nel tentativo di vedere cos'è che succede in giro. Ho sempre dichiarato che nel caso in cui ci fosse stata un'occasione l'avremmo valutata. Il momento tra l'altro non è proprio felice, perché l'infortunio di Marco ci ha tolto un giocatore che era da un paio di mesi in grande condizione e che ci aveva dato un grandissimo aiuto nelle ultime partite, e questo forse ha un po' accelerato i tempi dal punto di vista questo, del... È chiaro che, sai, avendo doppia competizione, effettivamente l'infortunio di Marco per noi è una tegola che ovviamente ci fa un po' male, ci dà fastidio, e quindi è chiaro che in questo momento la società sta guardando attorno per vedere se c'è qualcosa, perché gli impegni sono incalzanti. Abbiamo il campionato a domenica, già giovedì si parte con l'Eurolega, per cui è chiaro che io sono abituato a rimboccarmi le maniche e esprimere quello che c'è, però è chiaro che in questo momento siamo un po' pochi e dobbiamo cercare anche di trovare, se eventualmente ci fosse, un giocatore che possa aiutare. Questo ti dico, lo dico da sempre, come ti ricordi. Sì, sì, certo. Per cui ripeto, deve essere un giocatore di qualità, se no non se ne farà niente. Come del resto è anche vero che Mesoroca stesso ha un problema al ginocchio che è venuto fuori, è venuto 2 settimane. Ieri si è allenato ma non ha fatto niente tutta la settimana, oggi probabilmente non si allenerà ancora, e quindi effettivamente siamo un po' in emergenza anche sui lunghi, perché purtroppo Meso non è affatto in buona condizione, diciamo, anche sì. Magari va in campo e gioca la partita, perché è un ragazzo che quando può il suo cerca di portarlo sempre per il bene della squadra, ma comunque non sta bene fisicamente, diciamo che se comunque arrivasse Ollis Price, giocatore che penso gradito in questo momento a Milano. Sentiamo anche un ascoltatore che chiama da Milano ed è Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, io chiamo da Venezia in realtà, non da Milano. Ah, allora segnalazione errata. Comunque, prego, dica. Grazie, volevo chiedervi secondo voi le potenzialità della squadra femminile nostra di Venezia, lei è in Eurolega, visti i risultati che sta avendo, insomma, e anche lo stato di forma delle giocatrici che hanno anche partecipato in nazionale, insomma, con buoni risultati. Grazie. Vediamo. Grandi ambizioni, ma insomma, vediamo, perché adesso comincia il momento caldo della stagione, non solo sul fronte maschile, ma anche su quello femminile. Fronte femminile, di cui parleremo magari sì, sì, di assolutamente. E Piero, non per fare domande scomode, ma anche perché non è questa l'intenzione, molti ascoltatori, chiaramente, come tanti addetti ai lavori, hanno notato la situazione di Massimo Bulleri. Insomma, è una situazione che forse è diversa da quella che gli addetti ai lavori e gli stessi tifosi si immaginavano all'inizio stagione, forse anche tu. Beh, difficile credo per tutti. Più che di Massimo Bulleri, io devo parlare di una crescita di Sangaré. Onestamente credo che effettivamente Sangaré si è guadagnato un minutaggio, perché credo che abbia effettivamente fatto, insieme a Cattelinas, probabilmente i progressi più evidenti. Mindaugas sta giocando molto bene e credo unanimemente riconosciuto, così come Sangaré. E quindi, più che diciamo parlare del fatto che Bulleri non gioca bene o che gioca poco, è che secondo me sta giocando bene effettivamente Sangaré, oltretutto un ragazzo giovane, per cui questo va anche un po' in linea con la politica societaria, e quindi è una cosa che abbiamo valutato e che effettivamente ci fa piacere il fatto di avere azzeccato appunto un ragazzo come questo, che sta dando soddisfazione. Nella crescita di Vitali sei soddisfatto fino in fondo? Luca è passato attraverso il brutto infortunio iniziale, attraverso il dolore della schiena che l'hanno un po' condizionato, però credo proprio di sì. Direi che ha dato qualche zampato ultimamente che ne conferma il valore, il talento e la personalità, quindi è un giocatore che sta sicuramente, credo, crescendo. Poi è normale che in un processo di crescita, in un ragazzo così giovane come lui, ci possa essere qualche momento di appannamento, ma questo è umano, è comprensibile, e quindi ci sta che faccia qualche partita non particolarmente buona. Però mi sembra che in questo momento abbia trovato, credo, convinzione già dalla partita col Cesca, penso già da allora ha dato segnali importanti, credo. Mi pare che la partita simbolo di questa crescita possa essere quella di Atene, insomma, quella dei 32 punti e dei 7 su 8 da 3 punti, che tra l'altro arrivava dopo una settimana non facilissima, qualche fischio che sicuramente avrà sentito, ai quali lui ha reagito molto bene. Ha reagito molto bene a quei fischi, ma soprattutto ha fatto questa prestazione nella partita diciamo che chiudeva appunto questa fase di Eurolega e che ci ha regalato una soddisfazione importante per tutti. Devo dire che è stata una partita particolarmente bella, devo dire che la terrà sicuramente anche lui nella sua cinetica e la farà vedere molto spesso ai suoi nipoti, penso, in futuro. Palla spicchi. Sempre con noi Piero Buchi, coach dell'Armani Jeans Milano. Adesso allarghiamo un po' il discorso, allargherei il discorso con coach Buchi a quello che ha detto il campionato nel suo complesso in questo girone d'andata. Flavio. Sì, ci scrive anche Giacomo: Siena non ha perso neanche una gara nel girone d'andata, uguale il livello del campionato è basso. Sbaglio? Secondo me in parte sì, nel senso è semplicemente lo specchio del fatto che Siena in questo momento è di molto superiore alle altre. Ma questo non significa che il livello del campionato sia basso, non so cosa ne pensi, coach. Ma guarda, ci sono secondo me squadre buone. Siena secondo me in questo momento, sai, raccoglie i frutti di anni di lavoro fatto da presidente Menucci, onestamente fatto anche di italianizzazioni, di ricerca di giocatori. D'altra parte Siena sta costruendo questo da 15 anni e quindi adesso sono 3-4 anni, 5 anni che sta raccogliendo i frutti di questo lavoro e ha avuto anche l'abilità e la fortuna di formare un gruppo particolarmente compatto, formato da persone estremamente mature e da ottimi giocatori, e quindi questo alla fine credo che va a merito di Siena. Il livello del campionato secondo me probabilmente i talenti più grandi vanno all'estero adesso, vanno probabilmente in Russia, vanno probabilmente ancora in Spagna, non è certo il campionato del 2000 ad esempio, però in questo momento penso che comunque non sia un livello così brutto, insomma, assolutamente no. Senti, ma di Roma, che prima si diceva con coach Peterson, il lavoro di Gentile è splendido, però sembra una squadra quasi liberata da un peso, dalla situazione, una situazione repesa che era diventata forse anche per la squadra insostenibile. Detto questo, un allenatore che arriva e ne vince 6 in fila, insomma, vuol dire che qualcosa di suo ci ha messo, coach. Beh sì, penso che stia facendo un buon lavoro, e quindi ovviamente probabilmente c'erano anche problematiche di rapporti, di attriti precedenti, dissipati questi, ecco che la squadra ha trovato serenità. Alla fine penso che ovviamente il fatto di subentrare, di fare queste vittorie in fila, testimonia il fatto che la squadra ha trovato probabilmente più che qualità tecniche una serenità che forse prima non aveva. Mentre parlavamo prima di una tua ex squadra che ha ricostruito molto bene come Treviso, a fari spenti Treviso ha trovato gli equilibri giusti, adesso gioca anche una gran pallacanestro, ad essere onesti, coach. Si giocano bene, ma soprattutto effettivamente squadra poco chiacchierata quest'estate, e questo effettivamente aiuta, in particolare su una squadra che è abbastanza rinnovata. Il fatto di non essere sotto i riflettori aiuta decisamente i giocatori a avere più serenità e meno pressione. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. In bocca al lupo. Grazie a coach Piero Bucchi. Dunque, stiamo a vedere cosa combina Milano. L'impressione è appunto che al di là dell'esplosione di Sangaré, un giocatore arriverà presto. Sì, l'ha detto anche Piero Bucchi. Chiaramente noi siamo stati magari un po' cattivi a chiedergli di Bulleri, però insomma questo fa parte anche del nostro lavoro, del nostro mestiere. E per esempio c'è un altro, sempre per parlare di Milano prima che ci raggiungano altri ascoltatori: cosa manca Papso per diventare un fattore vincente? Che giudizio ne date? E chiedeva il giudizio di Bucchi, però Bucchi non c'è più, ne possiamo parlare noi. So è un giocatore che secondo me non è nato per fare il protagonista in Eurolega, è sicuramente un giocatore che ci può stare in un pacchetto lunghi, ma questo l'abbiamo detto dall'inizio dell'anno. Milano non ha un pacchetto lunghi adeguato all'Eurolega, ma probabilmente nemmeno al nostro campionato. È una squadra carente di centimetri, lo è fin dall'inizio. Rocca alle prese con problemi fisici, adesso come nel recente passato, insomma. Credo che non stia bene già da qualche stagione, poi ha un cuore che fa provincia e dunque in campo ci va sempre e il suo lo dà sempre, però è solare il fatto che Milano abbia problemi sotto canestro, abbia problemi di chili e centimetri, soprattutto quando ci si sposta sul versante europeo. Da questo punto di vista c'è da dire che ha fatto davvero un miracolo con quel girone di ritorno in Eurolega. Lì Bucchi ha tutte le ragioni del mondo nel sottolineare in rosso quello che hanno fatto i suoi, probabilmente disperdendo anche energie per il campionato. Rimane l'altro crucio, che è quello della leadership di Hawkins, che doveva essere il leader tecnico designato, ma non credo sia giocatore con le caratteristiche. Credo che quello sia un ruolo non suo, quello di leader. Probabilmente di a Milano lo sapevano. Dunque abbiamo un altro ascoltatore, chiama da Basket City, Bologna. Emiliano, buongiorno. Buongiorno, Basket City ma Menzanino, senese. Ah, fuori sede. Sì. Io sento spesso parlare anche un altro ascoltatore di questo livello basso del campionato. In effetti, secondo me, a livello di vertice è vero che non ci sono più squadre come la Kinder o come la Benetton di Messina, nel senso che noi abbiamo il talento, il pedigree per poter incarnare il ruolo di una squadra del genere, però secondo me questa storia a livello basso non è propriamente vera, perché io me lo ricordo negli anni 90, quando noi eravamo in bassa classifica, qual era il livello delle squadre, quando c'era la grande Butler o la grande Kinder. Io me lo ricordo, noi andavamo in A1 con delle squadre con giocatori che oggi non avrebbero né minuti né spazio. Erano squadre molto più povere di talento, più corte. Cioè Udine è terz'ultima, se non sbaglio, con Oscar Torres, cosa è forte. La Fortitudo non riesce a emergere nonostante una quantità di talento, sì. Ma parliamo del livello tecnico, parliamo delle difese che mette in campo squadre come Teramo, e anche povere di talento, però hanno un'organizzazione, un livello tecnico anche della panchina. Le panchine secondo me svolgono un ruolo molto, sì. No, secondo me questa storia a livello basso è sostanzialmente falsa. Sì, è difficile trovare dei parametri con il passato, insomma i confronti epocali sono sempre sbagliati, parametrare la realtà attuale a quella di 15-20 anni fa è molto complicato. Possiamo invece usare come parametro il livello che troviamo nelle coppe europee e soprattutto in Eurolega, dove insomma quest'anno ci è andata bene. Però facciamo parecchia fatica nel competere ad altissimo livello. Sicuramente, e questo può essere anche specchio di quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè nel passato noi avevamo squadre, c'è stato addirittura un anno, se il nostro ascoltatore se lo ricorda, anche tu Carlo sicuramente, in cui noi abbiamo mandato 3 squadre su 4 alle Final Four di Eurolega, che erano Fortitudo, Montepaschi e Benetton. Sì, sì. Poi alla fine la Fortitudo perse dal Maccabi Tel Aviv quella finale, però noi da quanti anni non mandiamo 3 su 4 alle Final Four? Tanti. Speriamo di mandarne una quest'anno. Insomma, io però ci conto. Questo secondo me è anche specchio di quella che è la realtà della pallacanestro italiana, che sicuramente tecnicamente potrà essere valida, come diceva il nostro dottore, però di base abbiamo dei budget che non sono paragonabili ad altre squadre, quindi i giocatori migliori non vengono qui. Matteo Forlì, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Dica. Allora, io volevo fare due domande rapide. Sì, prego. La prima è questa. Secondo voi come cambierà il gioco in Europa con lo spostamento della linea da tre punti e se questo attenuerà il gap di spettacolarità che c'è rispetto al basket americano? Secondo me sì. La seconda è proprio per dare una mano al nostro basket europeo come marketing, se mi potete dare col vostro ospite secondo voi la lista dei cinque, insomma il quintetto dream dei campionati vari e NBA esclusi, insomma dei campionati europei. Vi seguo per radio, complimenti per la trasmissione. Questo è difficile, ci pensiamo un attimo e la diamo la settimana prossima. Facciamo venerdì prossimo questa del quintetto dell'Eurolega. Quanto al tiro da tre punti, se voglio ti posso punti. Dire questo, secondo me le squadre ci mettono 3-4 mesi forse ad abituarsi alla nuova distanza e non cambia pochi. Niente. No, 3-4 pochi, però il discorso è giusto perché sarà solo una questione di abitudine, no? Abbiamo visto quando il tiro da tre punti è arrivato in Europa, insomma c'erano dei giocatori, mi ricordo D'Antoni, che ha sempre tirato da tre punti anche quando il tiro da tre punti esatto. Non c'era. Cioè, o lo porti a 7,25 come in NBA, allora è un conto, spostarlo indietro di quella cifra secondo me non cambierà poi molto. No, la questione è ovvio che il tiro da tre adesso è talmente condizionante che sta quasi diventando un tiro libero forse, adesso senza voler esagerare nel paradosso, però è vero anche che secondo me faranno molto poca fatica ad abituarsi le squadre e secondo me il modo di giocare non cambierà, cioè non vedremo più pallacanestro interna no. Come tanti anni fa, non cambierà perché il tiro da tre è più lontano. No, sono d'accordo, sarà soltanto una questione di abitudine. In una stagione vedremo la stessa pallacanestro che vediamo ora. Parliamo anche di Cantù, che c'è un ascoltatore che ce lo chiede, dice... C'è stato un Arrigoni settimana scorsa, esatto, tu non c'eri ma lui c'era, io ho seguito in maniera molto, molto puntuale. Pensate che per l'ennesimo anno dopo la qualificazione per la Coppa siamo davanti all'ennesimo miracolo di Cantù? Eh beh, è la realtà, no? Però è meno miracolo degli altri anni forse, nel senso che qualche giocatore collaudato stavolta Bruno Arrigoni se l'ha anche permesso, via dai. Sì, poi... Elder e Pinckney sono due americani non proprio scoperti, eh? ha fatto un miracolo a metà questa volta. Sì, c'è anche da dire che c'è anche da sottolineare in rosso il lavoro di Luca Dalmonte, perché che il nostro amico Werder Pedrazzi, Superbasket di questa settimana, ha eletto allenatore di metà del cammino, insomma, senz'altro Dalmonte ha fatto un lavoro straordinario. A un certo punto Dalmonte sembrava a rischio in discussione, è comparso dai tifosi canturini, quello striscione Dalmonte non si tocca, da lì la scintilla che ha portato Cantù a fare 5 vittorie in fila e ad entrare nelle magnifiche 8 che si giocheranno la Coppa Italia. Peccato che prenda Siena, però vabbè, insomma, intanto c'è. Ma attenzione, attenzione a Montepaschi Cantù, poi vince Montepaschi, però attenti perché Cantù può dare fastidio. Non dimentichiamo che l'anno scorso tutti Siena, poi detentrice della Coppa Anche Italia. Anche 2 anni fa. Esatto, è l'Aira Avellino. Dunque ci fermiamo qui, torniamo naturalmente con il basket venerdì prossimo con Palla Spicchi, domani lo sport dalle 17 alle 18. Flavio, alla prossima. A venerdì. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata a tutti.